It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 31 dicembre, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV e anche auguri di buon fine dell'anno. Speriamo che possiate festeggiare. Vi ricordiamo, il nostro programma in particolare che fa da ponte tra carcere e città sarà vicino alle persone che in questo momento sono in condizioni di detenzione, quindi in privazione della libertà personale. Io sono sempre Caterina, qui a conduzione con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina. Il nostro programma Liberi Dentro di Radio TV che fa da ponte tra carcere e città, che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E do, Antonella, a te un compito speciale per oggi, che è quello di... E che è quello di aprire la casellina del nostro fantomatico calendario dell'Avvento, chiamato così per dire, perché semplicemente ogni giorno apriamo questa casellina per tirar fuori gli auguri da parte di qualcuno. E oggi gli auguri arrivano da una persona che conoscete tutti, non c'è bisogno di presentarvela, perché partecipa ormai da tantissimi anni al programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ed è Filippa Lagerbach. Abbiamo avuto gli auguri di Filippa e grazie all'aiuto di Paolo Aleotti, che ovviamente ringraziamo. Ascoltiamo che cosa ci racconta Filippa. Ciao a tutti, io sono Filippa Lagerbach e ci tenevo tanto a farvi questo saluto, un augurio di Buon Natale. Io sono svedese e su da noi in questo periodo è veramente buio, il sole praticamente non si fa vedere. E nelle tradizioni pagane si pensava che il dio sole fosse malato, perché era così debole, emanava così poca luce. E allora si prendeva il sempreverde come simbolo del fatto che tutto sarebbe tornato a vivere e a crescere e rinascere quando il sole avrebbe recuperato le sue forze. E quindi oggi vi mando un raggio di sole. Tanti auguri. Grazie Filippa per questi auguri veramente belli e anche molto naturali. E ritorniamo alle notizie di oggi. Se il femminismo globale ignora le donne in prigione, lo leggo dal Dubbio, è un articolo, questo a firma di Alessandro Fioroni, e fa molto molto riflettere, perché nel corso dell'ultimo Generation Equality Forum, l'iniziativa globale delle United Nations Women, più di 40 miliardi di dollari sono stati messi in programma per sostenere gli sforzi per ridurre le disparità di genere e promuovere l'uguaglianza, ma all'interno di questa narrazione anche bella, edificante, mancano alcuni attori, che sono proprio le donne che si trovano in stato di detenzione in tutto il mondo. Eh sì, questa è una cosa assurda, perché le donne restano detenute più delle detenute, insomma è una detenzione proprio archetipa. Sì, è una doppia detenzione, come spesso abbiamo detto nel nostro programma, ed è ciò che pensa anche l'avvocato zambiano-britannico Sabrina Matani, che è anche la direttrice di Women Beyond Walls, e lei dice: il carcere dunque continua a costruire un marchio, come dici tu Antonella, qualcosa di cui vergognarsi. Per le donne poi diviene una condizione ancora più difficile da sostenere per la mancanza di veri e propri progetti di reinserimento. Quindi con questa cosa lei lancia un'accusa rivolta non solo alle istituzioni, ma anche in particolare al movimento femminista del pianeta. Eh sì, infatti io mi chiedo come mai tutta questa negligenza, come mai nessuno fa niente? Guarda, secondo quanto emerge da alcuni studi della WBV, le organizzazioni che lavorano con le donne nelle carceri di tutto il mondo e che svolgono quindi anche una funzione vitale in aiuto alle persone più emarginate dalla società, non stanno ricevendo il sostegno che meritano, perché anche le femministe evitano di aiutare le persone con delle narrazioni cosiddette complicate. E quindi le affermazioni dell'avvocatessa Matani, che riportavo prima, sono suffragate anche dai dati raccolti da un sondaggio realizzato interpellando proprio chi dovrebbe ricevere aiuto economico. Pensate che oltre il 60% delle organizzazioni che lavorano con le donne in carcere hanno risposto di trovarsi in una situazione finanziaria precaria perché non ottengono i finanziamenti che dovrebbero appunto ottenere. E quindi andando in profondità si vede come anche il 70% di questa associazione ha denunciato di non aver ricevuto denaro dai gruppi che lavorano per i diritti delle donne o dalle fondazioni femministe. Senti, sembra generalmente persistere per questa percezione negativa delle donne in prigione, che rende addirittura difficile fare delle raccolte fondi, sostenerle. Guarda, il mondo delle persone che hanno commesso reati, forse tu lo sai, insomma lo sappiamo noi che facciamo questo programma Liberi Dentro e Duradio TV, non è semplicemente un interesse per la maggior parte dei donatori o dei finanziatori. E molti, per ragioni anche politiche, diciamo, scelgono di non associarsi a una causa che riguarda le carceri. Ciò è ancora più evidente, denuncia questo articolo sul Dubbio, se si parla di detenute ritenute in un numero troppo piccolo rispetto ai maschi. Sebbene manchino dati precisi, le ONG hanno calcolato che la popolazione carceraria femminile complessiva ammonta circa a 740.000 unità, che sarebbe poco meno del 7% del totale globale. Quindi, come dici tu, Antonella, questi numeri, anche proprio esigui delle donne nelle carceri, sembra ritorcersi loro ancora più contro. E quindi con questo articolo vogliamo denunciare anche noi questa realtà. Sì, e dico, dopo tutto è un bene che ci sia un tasso così basso di detenute, non credete? Quindi è un dato assolutamente positivo, però vanno sostenute e i movimenti femministi dovrebbero essere in pole position a farlo. Ti lascio la parola, Caterina, per concludere. Grazie, ma in realtà la parola la lasciamo alla musica perché è un piccolissimo stacco musicale, poi Antonella ci sei tu. Candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Eccovi, bentornati dopo la pausa, siamo sempre con te, Antonella, e parliamo di altruismo animale. È un po' un filone che ci accompagna tutti i venerdì, cerchiamo di occuparci del mondo animale e con questo filone dell'altruismo questa volta parliamo di pipistrelli, vero? Eh sì, sarà che dicembre è il mese della generosità, dei doni, dell'altruismo, Ma abbiamo capito che l'altruismo non è solo una caratteristica degli umani, ma anche degli animali e non solo dei mammiferi, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Parliamo anche degli animali che hanno da sempre riempito l'immaginario cinematografico dell'orrore, Caterina. I pipistrelli vampiro Desmodus rotundus, quelli che ci fanno venire in mente il Conte Dracula, hai presente? Per dire quei film che proprio ti spaventano alla prima immagine. Infatti mi viene proprio spontaneo chiederti come può essere solidale un animale come il pipistrello che succhia il sangue, dai, diciamo la verità. Eh sì, il poveretto si alimenta, non è che poi mangerebbe altro se fosse predisposto a mangiare altro, bisogna anche giustificarlo. Comunque, i pipistrelli vampiro Desmondus rotundus si nutrono del sangue di animali domestici, per lo più bovini, una volta ogni 36 ore, che se ci pensi, Caterina, mangiano anche poco spesso, tutto sommato. Ma procacciarsi il cibo è sempre un affare complicato e non tutti riescono a mangiare a sazietà. E poi quando si vive in una colonia, mostrarsi altruisti e condividere il pasto può essere ovviamente conveniente, lo hanno capito le femmine di pipistrello vampiro. Quando hanno mangiato a sufficienza, infatti, tornano alla colonia e non solo sfamano ovviamente i loro piccoli, ma rigurgitano un po' del sangue ingerito anche per chi non è stato in grado di procacciarsi il cibo. Sono certe che il loro gesto altruistico non verrà dimenticato e che in caso di necessità saranno ricambiate. Ecco, come si dice, una mano lava l'altra al momento del bisogno. Questo vale anche per i pipistrelli. Sì, e poi sai, c'è un fenomeno che si chiama il mutualismo, cioè altruismo reciproco tra le specie diverse, che avviene in varie situazioni. Per esempio, un esempio appunto di mutualismo è lo speciale rapporto che c'è tra alcuni pesciolini, i gobidi che conosciamo anche come ghiozzi, e diverse specie di gamberetti del genere Alpheus. Il gamberetto è un portento a scavare tane nella sabbia e a tenerle belle pulite, cosa che invece il ghiozzo proprio non sa fare. Dal canto suo, però, il gamberetto purtroppo è ipovedente, ci vede molto poco, cosa che lo rende molto vulnerabile ai predatori. Il ghiozzo, invece, ha una vista straordinaria, perfetta, e quindi hanno stretto questo patto, questo sodalizio. Il gamberetto scava e ripulisce una tana nella sabbia in cui vivono entrambi, mentre in caso di pericolo il pesce avverte il gamberetto ipovedente, ovviamente, toccandolo, in modo che entrambi si possano rifugiare in tempo nella tana. Dimmi tu se questa non è una collaborazione eccezionale, e in natura sicuramente questa non è l'unica. E adesso però, Caterina, io ho scelto una canzone un po' particolare e la canzone è cantata da The Melted Dog ed è appunto I due leocorni. Beh, ve la ricordate tutti questa canzone? Ci sono due coccodrilli e un orangotango e poi dopo lasciamo che canti The Melting Dog. E dopodiché ci sarà l'ultima intervista di Caterina ad Arianna Augustoni e Alessandro Tommasi. Cucinare al fresco. E poi, proprio per non perdere queste interviste preziose, ve le riproporremo in una rubrica, un'intervista lunga che potrete seguire dall'inizio alla fine in una sola volta. A Ci dopo. sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo e l'elefante. Non manca più nessuno, solo si vedono. Bentornati di nuovo a tutte e tutti, continuiamo anche oggi per l'ultima intervista con il bellissimo progetto Cucinare al Fresco di Arianna Augustoni, della redazione e anche coordinatrice del progetto, e Alessandro Tommasi, che è l'art director di questa filiera bellissima editoriale di un ricettario dal carcere. E io ti chiedo, Arianna, in questi anni di esperienza con Cucinare al Fresco, quali sono le storie di vita che un po' ti porti nel cuore? Perché chiaramente si tende poi a conoscere le persone lavorando insieme, no? È stata un'esperienza veramente forte. Sono quelle storie che ti rimangono impresse nella mente e riesci a viverle solo se trovi qualcuno che te le racconta. Ti parlo di un detenuto che aveva diversi fratelli e le possibilità di acquistare quaderni, penne per la scuola non c'erano. Nonostante ciò, i suoi compagni avevano sempre tutto nuovo, tutto il meglio. Allora lui che cosa faceva? Andava in chiesa a rubare le monete e comprava quello di cui aveva bisogno per andare a scuola. Ma la cosa più drammatica è che quando tornava a casa con questi astucci, quaderni e penne nuove, nessuno gli chiedeva conto, per cui per lui era una cosa scontata. Da lì un reato dietro l'altro l'ha portato al carcere. Oppure qualcun altro mi raccontava che non vedeva l'ora che arrivasse la domenica, perché la domenica era la giornata della pasta al forno e se ne mangiava in abbondanza. Era il cibo prediletto da bambini, la pasta al forno piuttosto che le lasagne. Oppure qualcun altro che diceva che la mamma per merenda non aveva mai abbastanza cibo per riuscire a saziare tutti. Allora fettine sottilissime di prosciutto, fettine sottilissime di formaggio, ma tutti avevano la merenda. Allora mi permetto di dire, per persone che sono state più fortunate, che non avevano problemi di questo tipo, ti permettono di riflettere e di pensare a queste situazioni. Ripeto, non giustifico poi il loro comportamento, però un pensiero più profondo credo sia necessario. La società è fatta solo di evidenze, di begli aspetti, di belle parole, ma poi non si va mai a scoprire quello che una persona vive realmente. Mi permetto di dire questo. Mentre ti ascolto, mi chiedo se te lo sei chiesta anche tu in questi 3 anni di Cucinare al Fresco, che cosa possa significare per il gesto banale di cucinare in una situazione di privazione della libertà personale. Ovvero, è anche questa, secondo te, una espressione della propria libertà? Sì, sicuramente, perché attraverso il cibo loro ricordano la famiglia, ricordano i loro figli, ricordano l'infanzia. Insomma, è sicuramente un'espressione per ricordare e rivivere la loro libertà. Ma la cosa importante è che questa attività loro la fanno attraverso le parole. Per cui è un ulteriore sforzo. Un conto è cucinare, un conto è raccontarle con un certo ordine e raccontarle in rispettando i tempi che noi come coordinatori della redazione diamo. E poi la cosa più bella, poi mi taccio, è che un detenuto a fine di una lezione mi scrive una nota nella quale dice che è molto contento di partecipare a questo laboratorio, che all'inizio aveva un po' di paura perché temeva di non riuscire a far fronte all'impegno e a tradire le mie speranze. Invece è riuscito ed è uno di quelli che quando ha visto i primi ricettari dice: wow, ma è proprio bello. Prima che tu scappi, però ti voglio anche chiedere cosa fai al carcere Opera di Milano, perché so che vai anche lì. Allora, diciamo che a sistema abbiamo 14 istituti distribuiti da nord a sud. Quelli a sud, i miei tramiti sono le educatrici, al carcere di Opera il mio tramite è il direttore, che stimo come grandissima persona perché è uno dei primi che ha chiesto immediatamente che cosa stessimo facendo a Como. A Opera facciamo lo stesso laboratorio, purtroppo adesso per il Covid ho dovuto sospendere gli ingressi, ma funziona allo stesso modo. Abbiamo un gruppo di lavoro perché la redazione vera e propria è a Como, ma abbiamo tanti gruppi di lavoro che realizzano ricette. E a Opera c'è un aspetto ancora più curioso. A Como c'era un detenuto che perdeva solo tempo e disturbava l'aula. A Opera è diventato il coordinatore ed è quello che insegna agli altri ragazzi del gruppo come comportarsi per fare un lavoro coordinato, ordinato e utile per la pubblicazione. Lì ti spiega e ti dà la risposta dei passi in avanti che abbiamo fatto. Fantastico. E concludo chiedendo ad Alessandro, siccome sta per uscire il libro Cucinare al Fresco, dove possiamo trovarlo per conoscere quello che fate e sostenere la vostra iniziativa? Allora, tutti i libri sono distribuiti ovviamente per territorialità alla libreria Ubic di Como, fisicamente, quindi uno può entrare in libreria e comprarlo, ma li abbiamo messi anche in vendita su Amazon ad un prezzo molto molto basso, tenendo presente sempre che ogni acquisto che faranno le persone su Amazon, tutto il ricavato viene poi utilizzato per acquistare materiale per la redazione di questo progetto, quindi tutto quello che serve a loro per poter scrivere, carta, penne, matite, insomma tutto quanto così. Per cui se volete fare un'opera di bene, vi invitiamo ad andare su Amazon, fate il vostro acquisto, veramente parliamo di pochissimi euro, però noi ci date una mano, insomma, ad aiutare queste persone. E a continuare la progettazione anche per il prossimo. Proseguire anno. Il progetto, assolutamente. Io vi ringrazio davvero di cuore, spero che, siccome i progetti quando sono proprio belli come il vostro e sentiti diventano imitabili, spero che si possa replicare una cosa del genere anche alla Dozza di Bologna e che Arianna e anche tu Alessandro possiate venire a trovarci, me lo auguro. Ma noi di vi cuore. Invitiamo a contribuire, a mandarci il contributo, noi chiediamo, lancio un messaggio, chiediamo veramente che queste persone ci mandino le ricette, tutte le ricette vengono pubblicate nei ricettari e sui nostri canali social Facebook e Instagram Cucinare al Fresco, sono lì da vedere, non raccontiamo bugie. Tra l'altro sono anche in una zona loro dove la cucina la fa da padrone, quindi voglio dire, siete anche avvantaggiati su questo per quanto riguarda Bologna. Avete ragione. Grazie, rimaniamo con un altro brano musicale, Madonna, American Pie, e grazie agli ospiti, grazie davvero. Grazie. Grazie ciao. A te. A presto, ciao. Ciao. Maybe they'd be happy for a while. Smile. Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast today. The music died. We started singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. We started singing. We started singing. We started singing. E rieccovi, bentornati. Anche oggi siamo giunti ai soliti di fine puntata e vi annunciamo le rubriche a seguire. Oggi che è venerdì abbiamo sempre la rubrica dedicata all'Islam. Questa volta è nuova perché grazie al ritorno di Ignazio De Francesco in Italia per qualche giorno, poi ripartirà, e lui colloquierà con Hamdan Al-Zekri. E poi segue la rubrica Imparo da te, a cura di Adriano Moraglio, giornalista e scrittore, che racconta la storia di Alberto Balocco, l'imprenditore dei panettoni Balocco. Sabato siamo sempre con voi, a iniziare con la rubrica Le parole della parola, a cura del cappellano del carcere della Dozza Marcello Mattè, e poi continuiamo con la rubrica Parliamo di buddismo. A seguire un'altra rubrica nuova, questa volta sull'Islam, che si chiama 50 posti per dialogare, a cura di Ignazio De Francesco, e infine Le interviste impossibili, a cura di Danilo Cinti, che intervisterà Luca Iacoboni sulla COP26. Domenica siamo sempre con voi con Yoga Ratna, a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo, e poi seguirà Uomini e storie con l'intervista di Antonella Cortese a Susy Bledi. Grazie a tutti, ci rivediamo lunedì, buon anno e dai tantissimi auguri affettuosissimi da Liberi Dentro di Radio TV, da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota, Ignazio De Francesco, Paola Leotti, tutti noi che tutti i giorni siamo al vostro fianco. Liberi Dentro e du Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. It's glistening once again.